Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e come già i nostri GR vi hanno ricordato è un'altra seduta negativa per la maggior parte delle borse, non per tutte, nel senso che Francoforte guadagna il 2,2%, l'America dopo un avvio debole adesso guadagna uno 0,4% sul Dow Jones, il Nasdaq perde l'1%, questa mattina terribile la chiusura in Asia, a Hong Kong meno 12,7, in Giappone meno 6,4, si temeva un altro lunedì nero, invece se non cambieranno le cose nei prossimi 20 minuti le borse sono tutte deboli, ma non diciamo drammaticamente deboli, è meglio fare anche buon viso cattivo gioco, nel senso che Parigi perde il 3,2%, Londra perde, è invariata, Milano perde, è tra le peggiori, il 3,4% sull'S&P MIB, il 3% sul MIBTEL. L'euro è sempre a livelli da minimo dell'ultimo anno, 1,2481. Che cosa va particolarmente male a Milano? Beh, le banche. La Banca Popolare di Milano perde l'11,3%, Intesa San Paolo il 9,4%, Unicredito perde un altro 5,6%, è a 1,75 euro, Intesa è a 2,38 euro, la Popolare di Milano è a 4 euro. Ancora sul settore bancario assicurativo male anche le generali, meno 4,7%, UbiBanca perde il 4,1% come Unipol. Ancora Mediobanca perde il 2%. Poi ci sono dei titoli industriali che perdono parecchio, Italcementi meno 8,7%, Fiat di nuovo sotto pressione meno 6,8% a 5,4 euro, Tenaris meno 6,6%, Terna meno 5,90%, Pirelli meno 5,1%, Impregilo meno 4,6%, Mondadori pure, Fastweb perde il 4,2% come Autogrill, e Enel perde il 3,93%, A2A il 3,80%, Finmeccanica meno 3,7%, Buzzi Unice meno 3,3%, Parmalat meno 2%. È positiva invece Mediaset che riconquista i 4 euro per azione più 4,2% e il 4% lo guadagna in questo momento anche Seat Pagine Gialle, il 3,80% lo guadagna Saipem, il 2,7% Luxottica, il 2% Mediolanum, l'1,80% Bulgari e Snamnet Gas, lo 0,80% anche è il rialzo di Eni. Molti di voi ci hanno chiesto in questi giorni ma come mai perdono, calano, hanno tonfi veri e propri in borsa anche titoli legati a settori industriali che tendenzialmente nulla c'entrano con l'esposizione verso gli strumenti e i prodotti tossici, perché quello che sta capitando, adesso lo dico in maniera imprecisa e sommaria, è che i gestori di patrimoni, i gestori di fondi, perdendo molto su alcuni titoli, in particolar modo quelli bancari, quelli legati tutto al settore finanziario, e quindi bancari e assicurativi, vendono anche i titoli su cui poi più guadagnano, in modo da riequilibrare l'andamento del portafoglio, per quello che poi vengono giù sia i titoli diciamo più o meno direttamente implicati nella crisi finanziaria che i titoli che nulla c'entrano con la crisi finanziaria. Si va a guadagnare qualcosa vendendo titoli che, su cui ancora si sta guadagnando, in modo da riequilibrare le perdite che si stanno accumulando sui titoli bancari e assicurativi che da inizio anno mediamente hanno perso un 40-45%. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve, ci occuperemo oggi in apertura della situazione nell'est Europa, che è quella in questo momento e oggi più sotto i riflettori, più tesa, più delicata. Parleremo anche dei tassi di interesse, visto che la Banca Centrale Europea ha fatto un annuncio importante oggi. E poi telecomunicazioni e il caso islandese nella seconda ora del programma. Molti di voi ci hanno chiesto ma com'è possibile che un paese virtuoso in grande crescita economica, considerato una specie di nuovo Eden dell'economia, nell'arco di poche settimane venga salvato dalla bancarotta. E parleremo anche della vicenda all'Italia, perché oggi alle 18 inizia l'incontro tra i sindacati e la CAI per arrivare a una chiusura senza la quale la CAI non farà partire l'operazione, chiusura chiaramente sugli accordi contrattuali. Rapidamente la notizia in breve. Allora, se questa mattina il panico si è diffuso sulle borse asiatiche, va detto che l'apertura resta molto brutta in Europa, meno 5%, però poi qualcosa si è recuperato. Si è recuperato probabilmente anche per le parole arrivate dal numero uno della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, che oggi da Madrid, se ho ben visto, ha detto il prossimo 6 novembre è possibile un taglio dei tassi di interesse. Certo, Trichet ha fatto il Trichet, cioè ha detto l'eventuale taglio è una possibilità, non è una certezza, figuratevi se vi posso dire di quanto taglieremo. Già ho fatto molto nel dire che probabilmente o possibilmente taglieremo, dipenderà comunque da come vedremo andare l'inflazione, ma insomma l'annuncio di quelli che lasciano presagire con un discreto margine di sicurezza che la BCE taglierà i tassi. Una richiesta, lo ricordo, di una riduzione netta, più incisiva di quelle viste finora, era arrivata sabato dal forum della piccola industria di Bologna, dalla presidente di Confindustria Marcegaglia, che aveva detto subito i tassi giù di un punto e poi complessivamente di almeno 2 punti percentuali. Una situazione di questo tipo, di emergenza, è incredibile che la Banca Centrale Europea fino a poco tempo fa ancora parlava di aumento di tassi, anzi li ha aumentati, oggi li ha ridotti solo poco. Noi chiediamo in modo forte e chiaro che la Banca Centrale Europea già nei prossimi giorni tagli i tassi di interessi non di 0,25, non di 0,50, ma almeno di un 1% subito e di un 1% prendendo la fine dell'anno. Aggiungo però un'altra cosa, che se la Banca Centrale Europea taglia i tassi, ma l'Euribor continua a rimanere un punto 30 sopra il tasso ufficiale di sconto, noi non abbiamo capito niente. Quindi chiediamo che le autorità monetarie italiane e europee facciano in modo che il mercato dell'interbancario ricominci a lavorare in modo serio e che questo, come dire, questo taglio, questa riduzione di tasso che però oggi c'è ma è troppo debole, diventi invece chiara e secca, si ritorni a una situazione normale in cui l'interbancario è 0,20, 0,30 superiore al tasso ufficiale di sconto. Oggi siamo a un punto percentuale almeno in più. E di un possibile taglio dei tassi di interesse ha parlato oggi anche il numero uno, il premier britannico Gordon Brown, ha detto saranno possibili nuovi tagli di tassi concertati con le altre banche centrali e mondiali. E veniamo alla cronaca della crisi a questo punto. Perché? Perché al di là del caso dell'Est Europa, di cui parleremo tra un istante, oggi lo Stato belga ha dato 3 miliardi e mezzo di euro alla banca KBC, cioè entrerà nel capitale della banca per l'equivalente di 3 miliardi e mezzo. È la prima banca del paese, il titolo è in picchiata da diverse settimane e appunto cosa succederà? Il gruppo bancario emetterà titoli per 3 miliardi e mezzo riservati allo Stato, in sostanza lo Stato entra di fatto nella banca. Ne parleremo invece, parleremo di Islanda come dicevo nella seconda ora, ma insomma la banca islandese Kaupthing è diventata la prima banca europea a fare default, cioè andare in bancarotta. Lo ha fatto, default tecnicamente vuol dire che non sei in grado di ripagare i debiti contratti, non è infatti riuscita a ripagare un'obbligazione in scadenza, si chiama Samurai Bond, sono obbligazioni emesse sul mercato giapponese da operatori esteri, non è riuscito a onorare gli impegni relativi al pagamento che scadeva lo scorso 20 ottobre, valeva 4,8 miliardi e praticamente questo pone la banca in default, in capacità di ripagare i debiti contratti. Kaupthing, prima banca islandese, era stata nazionalizzata lo scorso 9 ottobre. Intanto in Germania Postbank ha annunciato un aumento di capitale urgente da 1 miliardo di euro, lo ha annunciato la stessa casa madre, la Deutsche Bank. Il gruppo Mitsubishi, quindi ci spostiamo in Giappone, Mitsubishi Financial Group, prima banca del Giappone, ha lanciato un aumento di capitale da 8 miliardi di euro, L'aumento di capitale vuol dire chiedere nuove risorse liquide, perché evidentemente ci sono problemi per le svalutazioni e le perdite che si stanno accumulando per gli investimenti in prodotti tossici e non solo. Ancora dall'America, Morgan Stanley, una delle poche banche di investimento americane sopravvissute alla crisi, ha dovuto spendere lo scorso mese 23 miliardi di dollari, cioè un paio di manovre finanziarie italiane, per sostenere i propri fondi monetari, dopo che i clienti erano fuggiti in massa da tutti i fondi legati alla liquidità. E poi la cronaca vede anche la più grande banca della Georgia in America, SunTrust Banks, chiedere 3 miliardi e mezzo di prestito dal tesoro americano in cambio di azioni privilegiate, quindi il tesoro entrerà in quella banca. E anche State Street, un'altra grande banca americana, avrà 2 miliardi dal tesoro americano con un ingresso azionario. Il tesoro americano sta anche pensando di intervenire su soggetti non bancari. Questo sarebbe un ulteriore estendersi della crisi, perché vuol dire che non sono solo le banche americane a rischio tenuta dei conti. Tra l'altro, su questo General Motors avrebbe chiesto, secondo quello che riferiscono alcune agenzie di stampa americane, un aiuto al tesoro americano per portare a termine la fusione con il gruppo Chrysler. Sempre nel settore automobilistico, ma ci spostiamo in Germania, Daimler ha confermato la chiusura dell'impianto più grande in Germania, quello di Sindelfingen, spero di averlo pronunciato bene, il più grande appunto in Germania, per far fronte al rallentamento della domanda di automobili come conseguenza della crisi. Dalla Francia la notizia che Carrefour, il numero 2 al mondo nella distribuzione, supermercati, ridurrà l'organico anche in Italia, ossia nelle sue centrali d'acquisto in Europa. E sul fronte italiano, oggi, dopo l'allarme lanciato ieri dal segretario CGIL Epifani che la cassa integrazione guadagni, la cassa integrazione rischia di restare senza fondi entro i prossimi 2 mesi, oggi il ministro Maurizio Sacconi, il ministro del lavoro, ha detto no, la cassa integrazione è ampiamente finanziata e non c'è nessun problema di tenuta. Sui mutui però, con le domande arrivate entro il 30 settembre, praticamente la Toscana ha chiesto 2 milioni di euro al governo. Allora, vediamo un po' come sta andando nell'Est Europa. Il caso si chiama infatti oggi Est Europa, e quindi passiamo al primo tema di questa puntata. Ungheria, ma non solo, Russia, Ucraina, Bielorussia, Danimarca, che non è certo Est Europa, né lo è l'Islanda, ma anche i paesi baltici. Trema tutta l'economia, non solo la finanza, dell'Est Europa, ossia dalla parte più a maggior crescita, più emergente del cosiddetto vecchio continente. Allora, ne parliamo con, da un lato, il dottor Alessandro Fugnoli, responsabile dell'ufficio studi di Abax Bank e esperto anche nei mercati emergenti dell'Est Europa. Buonasera Fugnoli. Buonasera a voi. E in studio con noi oggi Vittorio Darold, che è appena tornato oggi, poche ore fa, proprio dall'Ungheria, dove per il Sole 24 Ore ha scritto numerosi pezzi e quindi ha avuto modo anche di vedere quella che è la situazione nel paese più delicato in questo momento. Buonasera anche a te Vittorio. Buonasera a voi. Partirei proprio da te, che l'Ungheria oggi, il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato un pacchetto di aiuti all'Ungheria. Su Budapest la crisi ha scatenato una tempesta perfetta, cioè le banche locali erano all'85% di proprietà straniera e hanno iniziato a drenare liquidità perché le case madri straniere le volevano far rientrare. Pensate solo che Intesa San Paolo controlla la seconda banca ungherese, la CB Bank, e Unicredito controlla la settima banca ungherese. Quindi la casa madre chiede di rientrare, le banche stringono il credito. Se ho capito bene, stringono il credito. A quel punto gli investitori hanno venduto obbligazioni locali per far fronte alle esigenze di cassa e così la spirale viziosa era perfetta. La valuta locale è crollata, il fiorino rispetto all'euro, costringendo la Banca Centrale Ungherese ad alzare i tassi all'11,5%. La BCE e concludo, ha messo a disposizione di Budapest 5 miliardi di euro e vedremo a quanto ammonterà poi il pacchetto del Fondo Monetario Internazionale. Da inizio anno la borsa di Budapest ha perso il 53%. Che cosa è saltato, diciamo, nell'economia e nella finanza ungherese, paese con tasso di crescita decisamente superiore alla media europea? Vittorio. Innanzitutto l'Ungheria ha avuto in questi 20 anni 10 anni positivi, dove è cresciuta, ha aumentato la produttività, è riuscita appunto a essere anche molto attenta ai conti pubblici. E poi invece gli altri 10 anni è cominciata a diventare un allievo non più modello ma il peggiore, quindi ha cominciato a esportare meno di quanto importasse, ha cominciato ad avere dei conti poco in ordine e soprattutto non c'è stato più aumento di produttività e quindi i conti con l'estero dell'Ungheria ha cominciato ad andare male. Secondo fattore veramente straordinario, il 90% dei mutui contratti in Ungheria sono stati fatti in valuta estera, quindi in franchi svizzeri e in euro. Nel momento in cui il fiorino è diventato più debole, i magiari che avevano appunto la rata mensile da pagare si sono visti aumentare anche di 100 euro al mese la loro rata e quindi sono saltati. Il governo ha dovuto correre ai ripari, ha promesso di aiutare questi mutui in valuta trasformandoli gradualmente e gratuitamente in valuta a fiorini. E quindi una crisi, perché poi le crisi vanno anche raccontate perché innescano meccanismi da domino che poi di cui si perde l'origine delle volte. Il fatto che le grandi banche europee siano andate in difficoltà per investimenti fatti nei prodotti americani, prodotti tossici americani, fa compiere un giro di vite a tutti i grandi colossi europei, italiani, tedeschi, che di fatto detengono le banche ungheresi. A questo punto il giro di vite crea tensioni sulle obbligazioni, crea tensioni su chi ha un mutuo, perché è chiaro che quello che tu raccontavi sull'andamento del fiorino la dice lungo su quello che poi capita a chi ha un mutuo. E per non far saltare tutto il piatto, perché se tu inizi a non ripagare più i mutui, le banche nel frattempo stringono, i fondi escono, salta per aria tutto, la banca ungherese si è trovata costretta, banca centrale, a aumentare i tassi e garantire anche liquidità. Dottor Fugnoli, non c'è solo l'Ungheria oggi, perché l'FMI ha annunciato un pacchetto all'Ungheria, però e il premier ungherese, ho difficoltà a pronunciarlo, Ferenc Gyurcsány, grazie Vittorio, ha detto che l'accordo verrà firmato a breve col Fondo Monetario Internazionale. Ma insomma, in Ucraina il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato che darà un prestito da 16 miliardi e mezzo di dollari per piano di salvataggio. In Russia sappiamo cosa è successo, ma insomma ci sono i capitali stranieri sono scappati dalla Russia, ma non perché ci fosse un problema in Russia, perché dovevano rientrare in casa madre, visto che la casa madre aveva problemi. 33 miliardi di uscita di capitali di fondi stranieri solo tra agosto e settembre. E il Cremlino ha messo in piedi un piano da 20 miliardi per acquistare azioni delle banche dei colossi in difficoltà, Gazprom, Rosneft, Arrosa, insomma ci sono debiti enormi di questi colossi del gas. La borsa di Mosca ha perso il 70% da inizio anno, oggi è stato abbassato il rating della Repubblica Rumena. E nei paesi baltici Swedbank, che è la prima banca del Baltico, ha dovuto aumentare il capitale di 1,2 miliardi 100 milioni di euro dopo il crollo del 70% del titolo in una settimana. Chiudo con la Danimarca, che ha ottenuto 12 miliardi di euro dalla Banca Centrale Europea. La Danimarca non partecipa all'euro e ha dovuto operare un aumento dei tassi di interesse perché la corona danese stava crollando nei confronti dell'euro. Come mai, Fugnoli, le tensioni più grosse a livello proprio di tenuta dei conti dello Stato si stanno scaricando in tutto l'Est Europa e Baltico incluso? Beh, nell'Est Europa, in Asia e in America Latina, cioè sono tutte aree in cui negli anni passati si è verificato essenzialmente un fenomeno, cioè ci si indebitava in valuta forte per investire in valute locali. Questo veniva fatto sia in Europa, cioè in Europa gli investitori finali, sia istituzionali sia i privati, convertivano i loro euro oppure i loro dollari in America per comprare queste valute, e in questi paesi i soggetti privati o istituzionali di questi paesi si indebitavano in euro o in dollari perché i tassi erano molto convenienti. Quindi c'è un duplice fenomeno che coinvolge sia noi sia loro, e però che siamo andati tutti nella stessa direzione, cioè indebitarci in valuta forte per mettere i soldi in valuta locale. Adesso tutto viene invertito, rovesciato, e quindi c'è la corsa a comprare dollari, questo anche è una parte dei motivi per cui il dollaro è forte, a ricomprare euro e vendendo quindi la valuta locale. E più il cambio di questi paesi si svaluta, più sollecita altri operatori a chiudere le loro posizioni che sono in sofferenza. Quindi è un circolo vizioso molto rapido, abbastanza pericoloso. A fronte di questo però c'è una comprensione della portata del fenomeno, soprattutto da parte del Fondo Monetario Internazionale, che fortunatamente in questo momento è molto liquido, perché negli anni di espansione ha accumulato molti soldi, ha avuto indietro molti soldi prestati ai vari paesi, e ora si trova in grado di prestare molto velocemente quantità notevoli. Sì, devo dire che il Fondo Monetario Internazionale, che sembrava quasi disoccupato negli ultimi anni, sta riscoprendo una seconda giovinezza, una seconda vita, perché è liquido, come lei ricordava, cioè ha tanti soldi in cassa, perché dopo l'Argentina gli interventi sono stati praticamente inesistenti, adesso vado a memoria, ha riavuto i soldi che aveva prestato in questi anni. E ci si interrogava sul ruolo, cosa serve il Fondo Monetario Internazionale. Adesso lo stanno usando come una grande, diciamo così, banca o cassa depositi e prestiti a livello mondiale, a cui attingere o chiedere liquidità. Qualche istante fa Standard & Poor's ha tagliato il voto sul debito anche di Lituania e Lettonia, dopo averlo fatto oggi anche su altri anche sulla Romania. Praticamente il debito rumeno in valuta estera è stato retrocesso a junk, cioè a spazzatura, e questo è sicuramente preoccupante. Chiedono molti ascoltatori, Fugnoli, perché alla fine questi paesi si indebitassero in valuta straniera, cioè perché i mutui venissero fatti in valuta straniera e perché gli stessi governi avessero tutta questa esposizione sull'euro e anche sul dollaro. Ma partiamo dall'euro. Beh, sono fenomeni che abbiamo conosciuto anche noi. C'è stato un periodo in cui in Italia si facevano molti mutui in yen, quando i tassi sullo yen erano praticamente a zero, e quindi era molto conveniente apparentemente. Quindi questi paesi sono caduti nella stessa trappola, e ora si trovano a dover rimediare molto velocemente. E molti vogliono capire il meccanismo, cioè loro compravano mutui in euro perché è esattamente come abbiamo fatto noi, adesso non mi ricordo. No, mi scusi, il meccanismo per cui tutto sta venendo giù. Allora, il primo passaggio è che i mutui venivano fatti in euro perché il tasso di interesse, adesso vado a memoria, erano intorno al 3%, poniamo un 3%, mentre i tassi di interesse in Ungheria erano sicuramente più alti. Vittorio, teniamo il microfono aperto di Vittorio Darol, per favore. 8,5, e molti di loro hanno fatto anche in franchi svizzeri, e quindi avevano ancora un tasso ancora più vantaggioso. Il tutto confidando che il fiorino avrebbe gradualmente seguito una convergenza verso l'euro perché, certo, come voi ricorderete, c'è c'era un progetto di ingresso poi dentro l'euro. Allora, se tu chiaramente nella tua valuta hai tassi all'8,5% e quindi hai un mutuo bancario, poniamo al 10%, e puoi però fare un mutuo in euro con tassi al 3, quindi un mutuo bancario al 5, non devi essere un premio Nobel all'economia per capire che ti conviene il 5 rispetto al 10. E questa è la prima fase del meccanismo, Fugnoli. Che cosa ha fatto saltare il piatto, se riusciamo a ridirlo, perché molti ascoltatori lo chiedono? È un'altra collegata a questa, ed è che i continui afflussi di valuta in questi paesi hanno determinato un apprezzamento del cambio di questi paesi. Quindi chi si indebitava, chi contraeva un mutuo in questi paesi, pensava non solo di pagare un tasso basso, ma pensava anche in molti casi di dovere poi alla fine ricomprarsi i dollari o gli euro a un prezzo nella sua valuta più basso. Più conveniente, perché quindi, nel frattempo si rafforzava il fiorino ungherese. Negli anni passati, diciamo, è successo questo in Brasile, in tantissimi paesi, in Russia, cioè si è rafforzato il cambio su dollaro, perché il dollaro si è svalutato su tutto, e quindi si pensava di fare un doppio affare, invece adesso il problema è doppio. Ecco, questo aspetto, per poi salutarla, che mi interessava, perché il problema è doppio? Perché da un lato... non è vero che il fiorino, le valute dell'est Europa hanno smesso di rafforzarsi, hanno iniziato a perdere nei confronti dell'euro, perché sono ritenute valute più deboli, più insicure. Partiamo sempre dal clima di totale incertezza, se non delle volte panico, che regna sui mercati. Ma il secondo aspetto qual è, Fugnoli? Il secondo aspetto... Del motivo per cui il governo poi ungherese è dovuto intervenire? Cioè... Beh, perché a un certo punto... Per cercare di spezzare, di interrompere questo circolo vizioso, bisogna agire sul cambio, quindi dolorosamente alzare i tassi. E se alzi i tassi aumenta la rata del mutuo. Aumenta la rata del mutuo e si va un po' in recessione, certo. Però in questo modo si mitigano gli effetti sulla bilancia delle partite correnti con l'estero, cioè gli ungheresi importano meno, esportano un po' di più e quindi anche per questa via si tendono a riequilibrare i conti. Fugnoli, prima di salutarla veramente, l'Ungheria abbiamo capito che è il caso del giorno e poi parleremo con Vittorio Da Rolda anche, ma c'è qualche altro paese, nel senso la Romania che ha tutto il debito estero retrocesso a junk, a me un po' lascia perplesso. Nei paesi baltici abbiamo visto questo crollo del 70% in una settimana della Swedbank e l'ingresso appunto del capitale dello Stato, dell'aumento del capitale da 1,2 miliardi. Notizie brutte ci arrivano anche dall'Ucraina, dalla Bielorussia, dalla Danimarca. Dov'è la situazione più difficile secondo lei in questo momento? Beh, adesso chi ha iniziato prima a questo percorso di crisi è tra i primi che sono andati in ambulatorio dal Fondo Monetario e hanno ricevuto adesso le cure. Quindi l'Ucraina con quasi 17 miliardi e la Russia, Bielorussia. Poi ci sono altri paesi che hanno resistito un po' di più e che però adesso si trovano a percorrere chi più chi meno lo stesso percorso, sono i paesi dell'area balcanica che vedremo anche loro prima o poi bussare alla porta o del Fondo Monetario o della Banca Centrale Europea, riceveranno accoglienza, questo è importante dirlo. Riceveranno soldi, sono economie strutturalmente solide che si sono consolidate molto in questi anni, la crisi in questo momento è molto forte, però bisogna ricordare che le condizioni strutturali sono piuttosto solide. Certo. E quindi nell'arco di 2 o 3 anni potremmo vedere anche un buon recupero. Ce lo auguriamo, speriamo anche un po' prima, visto l'espressione di Vittorio Da Rolda. Grazie Alessandro Fugnoli, che è analista di Abax, anzi responsabile dell'ufficio studi di Abax Bank. Vittorio Da Rolda, diceva Fugnoli, l'Ucraina che ha già ottenuto un prestito da quasi 17 miliardi, la Bielorussia si sono mosse per prime e... prima vai in ospedale, diciamo, prima ci si augura tu ne esca, in generale. Il Baltico e Fugnoli indicava anche i Balcani. Ora, queste, non possiamo approfondire oggi il tema, ma sono aree importantissime per anche le nostre imprese. Ecco perché ci teniamo così tanto, visto che noi siamo, dopo la Germania, il paese più presente nell'area balcanica est Europa. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, hanno chiuso le borse, devo dire che purtroppo Parigi e Milano sono le peggiori in Europa, 4% di calo sui due indici, sull'S&P MIB, il MIB perde il 3,5%, mentre Francoforte ha guadagnato lo 0,90% e l'America sta guadagnando lo 0,7%, Milano è andata male non solo su due bancari come Popolare di Milano e Intesa San Paolo, ma anche su titoli industriali, Italcementi, Fiat, Tenaris, tutti con perdite sopra il 7%. Ne parliamo tra qualche minuto, vorrei chiudere con Vittorio Da Rolda, che appunto è reduce da un viaggio in Ungheria, di cui ha scritto su Sole 24 Ore. La situazione generale l'abbiamo capita, che situazione tu hai trovato lì, anche perché la cosa che mi ha impressionato è che la Banca Centrale Europea e l'Ungheria non fa parte dell'euro, quindi è come la Gran Bretagna da questo punto di vista, la BCE non se ne dovrebbe occupare, invece la BCE che ha prestato 5 miliardi di euro a Budapest per la crisi di liquidità. Esattamente questo, c'è un paese di 10 milioni di abitanti, perché di questo stiamo parlando, e che si trova nel vortice di questa crisi che dall'America si è spostata nell'Europa occidentale, poi le banche dell'Europa occidentale hanno chiesto, hanno drenato liquidità nei piccoli paesi dove erano presenti, ecco che allora questi forti scossoni non permettono a questi paesi piccoli e quindi che ruotano sull'eurozona, pur non facendone parte, di dover correre a chiedere aiuto. E quindi la Banca Centrale Europea per la prima volta ha dovuto soccorrere, perché questo paese è integrato fortemente. Di oggi la notizia che la Mercedes aprirà un nuovo stabilimento per le auto classe A e classe B proprio in Ungheria, e quindi non si può permettere questo tipo di abbandono. Di quanto sono esposte le banche europee nei confronti dell'Ungheria? Perché abbiamo detto che Germania e Italia da sole fanno i primi gruppi bancari in Ungheria praticamente. Certo. L'Italia ad esempio vanta crediti in Ungheria per 29 miliardi. Le banche italiane? Banche italiane, quindi però, basta dire, in Islanda era solo 1,5 miliardi. In Germania invece le banche tedesche per l'Islanda avevano 21 miliardi. Ecco, insomma, 29 miliardi sono una bella entità. Per dare una scala di valori, le banche italiane verso la Polonia sono esposte per 54 miliardi. Quindi è un paese di questo tipo, molto importante per le nostre imprese, per la nostra società, per la nostra economia. Sì, e per le nostre banche, perché poi come interscambio commerciale con l'Ungheria noi nei primi 7 mesi abbiamo fatto 2 miliardi e 2 di euro, sia di quello che abbiamo esportato sia di quello che abbiamo importato, in aumento tra l'altro il nostro export verso l'Ungheria. Però il problema è che le nostre banche hanno crediti nei confronti dell'Ungheria per 23 miliardi di euro, e qui ecco perché poi è importante che l'Ungheria venga tenuta su, così come la Germania va a crediti per 20 e passa miliardi verso l'Islanda, e la Polonia, che in questo momento, lo dico, non sta subendo grossi problemi, Vittorio. No, regge, la Polonia in questo momento regge, anche se subisce il problema di questi, dei suoi vicini, cioè dei russi, che cominciano anche lì a drenare liquidità, perché molti di questi paesi vivono appunto di investimenti esteri, e nel momento in cui non hanno questo investimento cominciano ad avere problemi immediati. Un altro paese da tenere e da monitorare è la Turchia, che hai detto niente. È una situazione tranquilla per il momento, ma anche lì vive di investimenti stranieri, che quest'anno naturalmente stanno diminuendo. Allora, per concludere, al di là delle differenze di ogni singolo caso, abbiamo visto che la Polonia in questo momento non c'entra nulla con l'Ungheria, che la Turchia ancora non ha avuto nessun problema e ci auguriamo che non ne abbia mai di grossi. Ma in sostanza tutti i paesi, Est Europa, Turchia, Sud America, che hanno visto crescere la loro economia grazie agli investimenti esteri, ecco perché l'Irlanda, lo dico per inciso, è stato il primo paese in cui lo Stato si è fatto carico di tutti i depositi, anche degli stranieri, perché l'Irlanda ha avuto un boom, un miracolo economico fatto tutto di investimenti che venivano dall'America piuttosto che dal resto d'Europa. Insomma, tutti i paesi dove gli investimenti esteri hanno rappresentato il motore della crescita sono in difficoltà, perché gli investimenti esteri escono, se ne vanno, non solo ne arrivano di meno, ma vengono anche chiuse le posizioni, perché le banche e i grandi gruppi mondiali hanno bisogno di soldi, e drenando, diciamo, la linfa di questa crescita, è chiaro che vanno in affanno, in difficoltà respiratoria, si direbbe, senza ossigeno, e intervengono quindi le banche centrali o dei singoli paesi, o addirittura il Fondo Monetario, o addirittura la Banca Centrale Europea. Questa crisi ha purtroppo diverse facce e diventa sempre più articolato raccontarla, perché non è più solo un problema di banche americane e di geni della finanza a Wall Street. Allora, giornata oggi sulle borse europee, come dicevamo, pesante, anche se non pesantissimo, ormai non ci sorprendiamo più di nulla, nel senso che Parigi e Milano perdono il 4% sul CAC 40 e l'S&P MIB, il 3,5% il calo del MIBTEL. Va molto bene invece, molto bene, scusatemi, è che ormai anch'io quando vedo il più 0,90 mi entusiasmo. Va bene, ha chiuso bene Francoforte più 0,90, l'America più 0,94%, il Nasdaq è debole. Allora, Paolo Paronetto, Radio Core sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. In una battuta, il caso di Francoforte, che è l'unica borsa europea positiva, visto che anche Londra ha perso l'1%, si chiama Volkswagen, cioè qui c'è un effetto Porsche. Se ce lo racconti in una battuta, poi passiamo ai titoli italiani. Volkswagen ha guadagnato alla fine una cifra incredibile. Sì, è stato veramente il caso della giornata. Volkswagen ha chiuso, i dati non sono ancora definitivi, ma ha chiuso a circa più 170% rispetto a venerdì scorso ed è arrivata a guadagnare anche il 200%, cioè a triplicare il suo valore verso la fine della seduta. La notizia, ovviamente arrivata nel fine settimana, è che Porsche, che è già il primo azionista del gruppo, è arrivato a detenere tra azioni e opzioni ormai il 74,1% della casa automobilistica, notizia che ha innescato immediatamente la reazione di tutti quegli investitori che nelle scorse settimane avevano venduto allo scoperto, quindi puntando sul ribasso dei titoli, che trovandosi ormai con un flottante molto risicato hanno dovuto far scattare immediatamente le ricoperture forzate. E quindi Porsche di fatto già ha 2/3 del gruppo Volkswagen, e comunque l'intenzione l'aveva comunicata di arrivare fino al 75% entro l'anno prossimo. Il titolo alla fine ha fatto un più 170%. 170% in borsa, alla faccia. Allora, e questo giustifica Francoforte, che rispetto alle altre borse europee non perde il 3% ma guadagna uno 0,90. Veniamo ai casi di casa nostra. Oggi le vendite sul settore bancario si sono concentrate su Banca Popolare meno 10,2, Intesa meno 10,1%, certo anche UbiBanca ha perso il 5,17% e Unicredit il 5%, ma insomma hanno perso il doppio la Milano e Intesa San Paolo. Certo, il tema caldo continua a essere quello dei coefficienti patrimoniali, della solidità dei gruppi e dei dubbi che ogni tanto si diffondano ciclicamente sulla solidità di questo o dell'altro gruppo. In particolare per BPM hanno pesato le parole del presidente Roberto Mazzotta, che in un'intervista al Sole 24 Ore di ieri ha ammesso che il Core Tier 1 della banca, che attualmente è al 6,4%, che è accettabile, dice Mazzotta, in una situazione normale, potrebbe non essere sufficiente a concedere correttamente il credito a chi lo merita nelle attuali condizioni di mercato, parole che hanno ovviamente in una situazione del genere innescato l'allarme e spinto gli investitori a vendere. Resta alta l'attenzione anche su Intesa San Paolo, che ha perso oltre il 10% anche lei alla vigilia della riunione degli organi sociali in calendario domani. La banca oggi è tornata a ribadire che il consiglio di gestione di domani non affronterà il tema dei target del gruppo, dopo che il Wall Street Journal era tornato a scrivere che invece domani poteva essere presente in considerazione una revisione del piano industriale. Allora, in questo periodo di vacche magre, oserei dire di vacche anoressiche, perché vacche magre è un altro periodo, qui siamo veramente le notizie positive sono al lumicino. Allora, il Banco Popolare ha chiuso invariato e va segnalato perché, ripeto, chiuso a 8 euro è sicuramente una notizia positiva, anche se invariato. Sì, certo, è stato il migliore dei bancari, ha chiuso a più 0,05, quindi praticamente invariato. La notizia niente, è un'ulteriore conferma della fiducia dei vertici del gruppo all'amministratore delegato Fabio Innocenti, dopo che nel fine settimana è circolata la notizia della sua presenza tra gli indagati nell'ambito delle nuove indagini sul caso di Banca Italisa. Ricordiamo che Innocenti era nel consiglio di amministrazione di Banca Italisa nell'epoca Faenza, e il gruppo subito i vertici del gruppo hanno confermato la fiducia nell'amministratore delegato, un segnale di fiducia accolto positivamente e che oggi ha sostenuto il titolo, che ha fatto meglio degli altri del comparto bancario. Allora, ancora un paio di titoli, se ce la facciamo. Seat Pagine Gialle è andata molto bene oggi, si è affrancata oggettivamente dal trend ribassista. Le risparmi addirittura sono il secondo miglior titolo dopo Beni Stabili in assoluto, hanno guadagnato il 7%, Beni Stabili il 7,2, il Santander ha guadagnato il 6,8 a Milano, Fondiaria sai sul risparmio il 6,5, Carrefour il 6,41%, dopo l'annuncio di tagli occupazionali anche in Italia, Stefanella, Eurotech più 5%, male invece oltre Allianz meno 12%, Deutsche Bank meno 11%. e poi Siemens e Bayer meno 10%. Seat pagine gialle, da un lato, visto che il titolo sulle ordinarie ha chiuso con un più 3,6%. Pagine gialle è un titolo che commentiamo spesso perché recentemente è molto volatile, soprattutto visto la sua azione avviato composto in modo particolare da fondi di investimento. Anche oggi non si segnala nessuna notizia particolare, ricordiamo che comunque dall'inizio dell'anno quello di Seat è uno dei titoli che hanno fatto peggio, anzi fino alla fine di giugno è in assoluto quello che ha fatto peggio, prendendo i dati da gennaio a giugno, e quindi al momento in questa situazione di mercato molto incerta e molto confusa è evidente che qualche investitore ha deciso di riprendere posizione sul titolo. Bene, anche Mediaset più 3% e Luxottica più 2,3%, l'euro è debole a 1,25, Bulgari ne ha approfittato un po' anche lei, torna a 6 euro più 1%, tutti i titoli legati all'export in area dollaro e quindi si avvantaggiano dell'euro debole, Alleanza più 1,1, male invece anche Fiat meno 8,20, Tenaris meno 7, Impregilo meno 6 come Terna e come Pirelli, il 5% l'hanno perso Ubibanca, Mondadori e Unicredito ed Enel, il 4% è il calo di Fastweb, Unipol e Generali, infine Finmeccanica, Monte dei Paschi, Buzzi Unici e Metelecom perdono tutto il 3%, A2A il 2,70%, in una battuta perché abbiamo chiuso, Fiat Paolo. Fiat ha risentito ieri, venerdì, a mercato chiuso, Standard & Poor's ha confermato il rating del gruppo ma ha abbassato l'outlook a negativo rispetto a stabile che era prima. Segnalo soltanto che Fiat ha perso l'8,2 come quasi tutti i titoli principali del comparto auto europeo, e ciò nonostante il sottoindice settoriale, che anche lui beneficia dell'incredibile balzo di Volkswagen, ha chiuso in rialzo del più 49%. Allora, grazie a Paolo Paronetto, conferma chi ci scrive al 349-238-6666 che Volkswagen, caso del giorno in Europa, ha guadagnato il 170% alla borsa di Francoforte, che non a caso è l'unica positiva. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chi si fosse appena messo in collegamento, sì, abbiamo ricordato, lo dico a chi scrive, il caso di borsa di oggi che si chiama Volkswagen, ha guadagnato il 170% alla borsa di Francoforte, che non a caso è l'unica positiva in Europa, più 0,90. È migliorata invece l'America, per fortuna più 1,3% in questo momento. Milano ha chiuso con un calo del 3,5% sul Mibtel e del 4% sull'S&P MIB, come Parigi, Londra un po' meglio, anzi meglio, meno 0,80%. Tra i casi di Milano abbiamo ricordato la Popolare di Milano e Intesa, il 10% di calo, e poi Italcementi meno 9, Fiat meno 8, Tenaris meno 7, Impregilo meno 6. Bene invece Seat più 3,6. Abbiamo anche dedicato la prima mezz'ora del programma alla situazione delicatissima in tutto l'est Europa, in senso molto lato, cioè dall'Ungheria. Oggi il Fondo Monetario ha annunciato un pacchetto di aiuti all'Ungheria e presto verrà firmato, all'Ucraina, dove il Fondo Monetario ha già destinato 16,5 miliardi, l'annuncio è arrivato oggi, per salvare l'Ucraina. La Russia ha prestato 830 milioni di euro alle compagnie aeree. La Romania, visto il proprio voto sul debito estero a passare a livello di junk, ossia di spazzatura, per quello che riguarda tutti i debiti in valuta estera della Romania. I Paesi Baltici, aumento a capitale da 1,2 miliardi per la più grande banca del Baltico, che si chiama Swedbank, dopo il crollo del 70% del valore di borsa la settimana scorsa. Infine la Banca Centrale Europea ha prestato 12 miliardi di euro in swap alla Banca Centrale Danese, molto teso il mercato piccolo della Danimarca, la Danimarca non è nell'euro, e quindi insomma la situazione da questo punto di vista. Ricordo che la BCE ha prestato anche i soldi alla stessa Ungheria perché ha messo a disposizione 5 miliardi di euro per fronteggiare la crisi di liquidità. Parleremo tra poco anche dell'Islanda, che è un caso anche, se mi passate la definizione, un po' di colore. Adesso però, siccome sta per partire l'incontro tra la CAI, compagnia aerea italiana, e i sindacati di Alitalia. Ci colleghiamo subito con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, l'appuntamento è di quelli decisivi, perché l'offerta della CAI arriverà solo dopo il via libera dei sindacati ai contratti e alla riduzione di organico. Domani vi sarà un'assemblea della CAI per trasformarla in SPA. L'offerta vincolante deve arrivare entro venerdì 31 ottobre. E poi c'è un'indiscrezione della Tribune di ieri, il quotidiano francese diceva che entro il 12 novembre arriverà la scelta del partner straniero e il 1 dicembre la nuova Alitalia sarà in pista. Nessun commento da parte di Lufthansa e anche di Air France. Allora, quali sono le premesse, Vincenzo? Le premesse sono che la trattativa che sta iniziando in questi momenti dovrà definire nelle prossime ore nel dettaglio i contratti che saranno poi applicati a piloti, assistenti di volo e personale di terra. Dopo l'accordo raggiunto infatti settimane fa a Palazzo Chigi, è necessario mettere ora nero su bianco anche le integrazioni ottenute in seguito da alcune sigle sindacali. Di base comunque per i contratti il termine di riferimento è la disciplina in vigore attualmente in Air One. I piloti però, equiparati inizialmente ai dirigenti, vogliono un inquadramento autonomo e un contratto separato. Questo è il primo nodo da sciogliere. Poi altro capitolo, quello degli esuberi, che ricordiamo dovrebbero essere 3.350. Nell'incontro di oggi si dovrebbe stabilire i criteri per individuare le persone che rientreranno in questa categoria. I vertici della CAI, lo ricordavi da studio, puntano una trattativa ad oltranza. Domani infatti a Milano ci sarà l'assemblea degli azionisti che dovrebbe sancire il via ufficiale del salvataggio di Alitalia. Quindi si preannuncia una trattativa che durerà diverse ore e ricordiamo quindi due punti da superare: contratti ed esuberi. E quindi, come tu ricordavi, trattativa ad oltranza, cioè la CAI vuole chiudere entro stasera, mi auguro che non sia troppo tardi anche per te, ma perché domani ha il Consiglio di Amministrazione che deve trasformare la ragione sociale da SRL a SPA. Grazie per ora Vincenzo Miglietta. Ancora ripeto chi ce lo chiede, non è arrivato nessun commento né da Lufthansa né da Air France. Altri di voi chiedono al 349-238-6666 dove saremmo se non avessimo l'euro. Beh, saremmo messi male vista la situazione danese, che pure è una bellissima economia, o ungherese. Tutti i paesi che non sono dentro l'euro stanno subendo moltissimo adesso il rapporto, il deprezzamento della loro valuta. Ecco perché la Danimarca, ma anche l'Ungheria, hanno dovuto alzare i tassi di interesse, perché le valute più deboli o più isolate perdono molto. L'euro, comunque, la si voglia vedere, rappresenta una valuta, non dico come di rifugio, ma una delle più forti valute al mondo, per cui è chiaro che si preferisce avere, detenere euro che non fiorini ungheresi o corone danesi. Le informazioni per chi è in viaggio, e poi ci colleghiamo con Reykjavik per capire che cosa è successo a un paese che fino a qualche mese fa veniva descritto come un miracolo economico sulla falsariga di quello irlandese, l'Islanda, un boom economico, tutti che volevano trasferire le società lì, ci sono anche agevolazioni fiscali. Nell'arco di due settimane l'Islanda prima è stata salvata in parte dai soldi russi e poi ha dovuto chiedere l'intervento di soldi occidentali in senso stretto. Di nuovo in diretta, ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Dunque, c'è un paese in Europa che ha 335.000 abitanti e era considerato un gioiello negli ultimi anni, crescita del PIL intorno al 4%, e ha rischiato o rischia la bancarotta. Si chiama Islanda. Che cosa è successo? I debiti delle banche islandesi hanno raggiunto i 61 miliardi di dollari. Sono sei volte il PIL dell'Islanda, che vale circa 12 miliardi. È come, per dare un'idea delle proporzioni, se da noi le banche avessero debiti pari a sei volte il PIL italiano. Vorrebbe dire, visto che il nostro PIL è circa di 1.600 miliardi di euro, è come se le nostre banche avessero accumulato debiti per 9.600 miliardi di euro. Ora, chiaro che l'Italia sarebbe in bancarotta. Tra l'altro, in aiuto all'Islanda sono arrivati fondi per circa 5 miliardi, cioè pari a metà del PIL di un anno. Anche qui è come se l'Italia avesse chiesto aiuti per circa 800 miliardi di euro. Hai capito che roba? 5 miliardi di euro, 1 miliardo dal Fondo Monetario, il resto dal Giappone, dai paesi nordici e forse Mosca. Dicevo, un paese che cresceva del 4% improvvisamente si trova sull'orlo della bancarotta. Ci colleghiamo allora con Reykjavik, dove c'è Tora Arnórsdóttir, mi dispiace se l'ho pronunciata male, collega giornalista islandese, buonasera. Buonasera. Allora, grazie anche perché il suo italiano è eccellente. Le chiedo, l'Islanda ha avuto una crescita dovuta anche a agevolazioni fiscali, veniva considerato un paese modello quanto a crescita economica fino a qualche mese fa. Che cosa è successo per aver raggiunto debiti pari a 6 volte il PIL del paese quanto a banche? Allora, dove cominciare? Cominciamo col fatto che le banche sono state privatizzate 6-7 anni fa e quelli che le hanno comprate hanno subito deciso di andare all'estero, diventare internazionale. In quell'era era molta liquidazione, tanti soldi in giro e delle aziende islandesi hanno preso in prestito tantissimi soldi per acquistare il mondo, ma soprattutto in Europa, delle altre aziende, ma tutto in debito. E quindi anche se hanno seguito tutte le regole europee, c'è da dire che l'Islanda non fa parte dell'Unione Europea ancora, certo. Abbiamo la nostra valuta, la corona, la krona islandese, e quindi quando il sistema bancario cresce così tanto, come ha detto lei, di essere 6 volte il PIL, la banca centrale non può e non ha fatto quello che forse avrebbe dovuto fare, quindi avere dei fondi di moneta estera per poter poi difendere la krona e le banche quando ci sarebbero dei problemi, perché non c'è sempre il sole. Hai capito che loro hanno rischiato tanto, preso tantissimi debiti, è andato benissimo per qualche anno, ma poi quando sono arrivati i problemi internazionali allora è stato facile attaccare la krona, e anche quando le banche avevano così tanti debiti è stato troppo facile, cioè è crollato in poche settimane. Allora, se ho ben capito dal suo racconto, anzi se non una collega ti do del tu, dal tuo racconto, le banche islandesi si sono indebitate e hanno a loro volta chiesto soldi alle banche europee, immagino, alle banche mondiali. Per cui in questo momento i debiti delle banche islandesi hanno raggiunto 6 volte la dimensione di tutto il PIL islandese, pari a il PIL è 12 miliardi, siamo a 61 miliardi, perché hanno concesso moltissimi prestiti, probabilmente si sono rifinanziate con altre banche europee, le banche europee o comunque mondiali stanno chiudendo i rubinetti e, se ho ben capito, questo ha creato un effetto credit crunch, una chiusura del credito per tutte le banche islandesi. È così che è andata? Sì, sì, sì, sì, hanno chiuso tutto, anche perché quando la prima banca, Glitnir, è andata sotto, è stata nazionalizzata, lì si è chiuso tutto. Poi addirittura gli inglesi, il primo ministro inglese ha detto guardate, l'Islanda tra poco verrà bancarotta, le banche non possono più pagare, quindi noi chiudiamo le banche qua. E le banche islandesi erano veramente grandi in Inghilterra e lì avevano dei debiti che adesso gli inglesi e il governo islandese stanno discutendo, ma come facciamo a pagare tutti i soldi? Perché c'erano 300.000 inglesi con centinaia di milioni di euro sui conti delle banche islandesi lì in Inghilterra. Chiarissimo. Devo dire che forse se i nostri bambini, i nostri nipotini dovranno pagare, non solo abbiamo perso tanto dei risparmi, ma i nostri bambini, forse i nipotini dovranno pagare i debiti. Sì, guardi, lei lo racconta, un paese in cui i miei figli eventuali, oltre a quello presente, i nipoti eventuali, tutti pagheranno il debito che abbiamo, che noi, i nostri genitori hanno contratto in questi anni, cioè il paese Italia vanta da solo metà del debito di tutta Europa, per cui capiamo benissimo la situazione. Un'ultima domanda in una battuta, i fondi stranieri presenti in Islanda sono scappati nel frattempo? Perché l'altro problema non è solo che le banche islandesi abbiano avuto avessero troppi debiti con altre banche, adesso non si sa più come fare a ripagarli. C'erano anche molti capitali stranieri, sono rimasti o sono fuggiti? Ma è una... io non lo so. Bene. Ma diciamo che con tutto questo influsso c'è bisogno di almeno sapere cosa è successo nelle ultime settimane prima che sono crollate le banche, dove sono finiti tutti questi soldi. Quello sicuro, sì. Mm-hmm. Ma dove sono andati, non lo so. Ah, perché l'Islanda era un paese che dava anche dei vantaggi fiscali a chi andava a investire in Islanda, o sbaglio? A chi veniva a investire in Islanda? C'era un vantaggio fiscale forte? Certo, sì. Per cui questo... c'era tantissimo influsso di moneta estera. Devo dire che adesso la crona vale quasi nulla. Vabbè, io le auguro in bocca al lupo, perché insomma veramente la situazione è difficile. Chiaro che si sono sommate due cose: da un lato le banche che hanno concesso troppi crediti troppo facilmente, si sono indebitate, le banche islandesi con altre banche, il caso che lei raccontava in Gran Bretagna è esemplare, e dall'altro tutti quei fondi stranieri che erano arrivati in Islanda per via anche delle agevolazioni fiscali stanno uscendo, come è avvenuto un po' in Russia sono usciti 33 miliardi di dollari solo tra agosto e settembre, perché c'è bisogno di liquidità e quindi i fondi, le case madri chiudono i rubinetti, chiedono di rientrare, vogliono liquidità per affrontare i problemi in America piuttosto che in Europa, e questo poi a cascata, come effetto domino, crea problemi anche nei paesi dove erano presenti, Russia ed Islanda. In bocca al lupo veramente a lei e ai suoi connazionali, a Tora Arnoldsdottir, in collegamento con noi da Reykjavik, scusatemi ma l'islandese non è il mio forte. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia.